Il punto di Stefano Folli. Dopo gli ultimi miglioramenti, la riforma del Senato sembra davvero vicina, al di là dei malumori affiorati nel PD e poi in apparenza rientrati. L'impianto della riforma dimostra che il patto fra Renzi e Forza Italia, allargato alla Lega, nella sostanza ha tenuto. Questo è il dato politico rilevante. Era previsto, ma gli stati d'animo di Berlusconi e il clima interno a Forza Italia lo rendevano precario. Invece, aver allargato l'intesa alla Lega, comprendendovi la riforma del titolo quinto, è stata da parte di Renzi l'intuizione vincente. A questo punto, che senso ha rilanciare il presidenzialismo con l'elezione diretta del capo dello Stato, come ha fatto ieri Berlusconi? Solo uno: tentare di frenare il successo mediatico del Premier e ritagliarsi qualche titolo sui giornali. Infatti, la proposta berlusconiana non è fatta per essere discussa adesso, è solo una bandiera sventolata a futura memoria, niente di concreto. Anche perché è abbastanza chiaro che il presidenzialismo in Italia è quello che sta costruendo il Presidente del Consiglio un passo dopo l'altro. Non c'è bisogno di una proposta di legge ad hoc.